terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Molti degli amici di mio padre e mia madre erano morti. Era morto Carrara, il marito della Paola Carrara, ancor prima della guerra. Uomo alto, magro, dai candidi baffi a spazzola, che andava sempre in bicicletta con una mantellina nera che svolazzava. Di lui mia madre diceva sempre che era così per bene. Per bene come Carrara, diceva quando voleva indicare il sommo della rettitudine. E anche dopo che era morto, continuò a dire così. Anche i genitori di Adriano erano morti, il vecchio ingegnere Olivetti e sua moglie, proprio nei mesi che erano seguiti all'armistizio, in una campagna vicino a Ivrea dove si erano nascosti, prima lui e poi lei, poco tempo dopo. Era morto Lopez, appena ritornato alla fine della guerra dall'Argentina, e anche Terni era morto a Firenze. Mio padre era sempre in corrispondenza con sua moglie, Mary, che però non vedeva da diversi anni. «Hai scritto a Mary?» diceva a mia madre. «Bisogna scrivere a Mary, ricordati di scrivere a Mary!» «Sei andata a trovare la Francis?» le diceva. «Vai a trovare la Francis! Oggi vai a trovare la Francis!» «Scrivi a Mario!» le diceva. «Guai a te se oggi non scrivi a Mario!» Mario non lavorava più con quel francese. Aveva ora un impiego alla radio. Aveva la cittadinanza francese e s'era sposato un'altra volta. Quando fece sapere che s'era sposato un'altra volta, mio padre questa volta s'arrabbiò. Tuttavia non molto. Andarono lui e mia madre a Parigi per conoscere la nuova moglie. Mario abitava in una casa nei dintorni della Senna. Quella casa era piuttosto buia e mio padre non riusciva a veder bene la moglie di Mario. Vide soltanto che era piccolissima e che aveva una frangia sugli occhi. Chiese a Mario, un momento che lei non c'era, «Ma perché hai sposato una donna tanto più vecchia di te?» In verità, la moglie di Mario non aveva nemmeno 20 anni. Lui, Mario, ne aveva 40 ormai. Ebbero una bambina. Tornarono a Parigi mio padre e mia madre per la nascita della bambina. Mario andava matto per la bambina e la cullava su e giù per le stanze. «Elle pleure, il faut lui donner sa tété», diceva concitato alla moglie, e mia madre diceva, «Ma come è diventato francese?» Questa volta mio padre si infuriò, trovando un giorno nella casa di Mario, con la bambina e la moglie, l'altra moglie di Mario, quella Jeanne, dalla quale si era divorziato e con cui aveva mantenuto rapporti amichevoli. A mio padre non piaceva quella casa sulla Senna, diceva che era buia e che doveva essere umida. Quanto alla moglie di Mario, gli sembrava troppo piccola. «È troppo piccola!» continuava a dire. Mia madre diceva, «È piccola ma è graziosa. I piedi li ha un po' troppo piccoli. A me non mi piacciono i piedi piccoli». Mio padre su questo non era d'accordo. Sua madre aveva avuto i piedi piccoli. «Hai torto! I piedi piccoli nelle donne sono una grande bellezza. Mia mamma, poveretta, si vantava sempre d'avere i piedi piccoli». «Parlano troppo di mangiare», diceva mio padre di Mario e sua moglie. «Hanno una casa troppo umida. Digli che cambino casa». «Ma sei matto, Beppino? A loro gli piace tanto star lì. Anche questa della radio. Ho paura che sia un mestierolino», diceva mia madre. E mio padre diceva, «Peccato, con la sua intelligenza avrebbe potuto fare una bellissima carriera». Cafi era morto a Bordeaux. Mario e Chiaromonte avevano radunato tutti i suoi fogli sparsi, scritti a matita, e cercavano di decifrarli. Chiaromonte in America si era risposato. Lasciò Parigi e venne a stabilirsi con la moglie in Italia. Mario trovò che era stupido, che non poteva fare una cosa più stupida. Rimasero tuttavia molto amici e si incontravano ogni estate a Bocca di Magra. Giocavano a scacchi. Mario ora aveva 2 bambini e lavorava all'UNESCO. Mio padre scrisse a Chiaromonte per chiedergli che tipo di lavoro faceva Mario e se era cosa che presentava qualche garanzia di sicurezza. «Forse questo non è un mestierolino, forse è un buon mestiere», diceva mia madre. Ma mio padre, nonostante avesse ricevuto da Chiaromonte informazioni confortevoli, scuoteva la testa deluso, essendo mio padre molto testardo ed essendo sempre incapace di spostarsi dalle prime impressioni che aveva avuto, per cui sempre conservò l'idea che Mario avesse mancato una brillante e fortunata carriera.